Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È cominciato il film? Sì, ma solo da 2 minuti. Chiuso? Niente, beh, io non posso entrare. 2 minuti, Al. No, mi dispiace, ma non posso. Il cinema è già saltato, io lo sai. Io non posso entrare a metà. A metà? Hai perso i titoli di testa, sono in svedese. Prendiamo un caffè per 2 ore o qualcosa? Oh, mi dispiace, io non riesco. Io devo vedere un film proprio dal principio alla fine. Sono a senso unico. Ci sono cose che facciamo quasi senza rendercene conto, altre che non riusciamo a trattenerci dal fare. Buongiorno intanto da Nicoletta. Inizio sibillino quello di oggi per presentare il tema della puntata, che vuole aiutarci a capire che cosa si nasconde dietro alle nostre piccole manie, alle fissazioni, ai nostri piccoli riti. Scarabocchiare mentre si parla al telefono, allineare penne e matite in un angolo preciso della scrivania, attorcigliarsi i capelli, rosicarsi le unghie. Spesso compiamo questi gesti in automatico, quasi senza rendercene conto, altre volte li eseguiamo con misurata attenzione per trovare tranquillità, in altri casi solo per scongiurare un pericolo, per scaramanzia. Ma come dobbiamo interpretarli nell'attesa delle vostre chiamate che aspetto numerose all'800 24 00 24. Voglio presentarvi subito i nostri due ospiti di oggi. Saluto il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno a lei. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Esperto anche del nostro Daily Lab ed è tornato a trovarci con grande piacere il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, bentornato. Buongiorno, bentrovata Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Aquilar, le piccole manie sono rivelatrici del nostro stato d'animo del momento, del modo in cui ci relazioniamo con noi stessi e con l'ambiente e dentro certi limiti, io credo, possono aiutarci a vivere meglio. Ma certamente, perché svolgono numerose funzioni. Al primo posto aiutano a ridurre e a gestire l'ansia, se non sono esagerati, perché altrimenti poi nascono come salvagente e diventano un imprigionamento. Poi ci aiutano in alcune circostanze a riorientare e a focalizzare l'attenzione, come per esempio gli scarabocchi che facciamo mentre rispondiamo al telefono, e per certi aspetti, come ci faceva notare l'introduzione che avete fatto con quel pezzo dei due signori che non riescono a decidere di entrare al cinema, il grande film iniziato, sì, ci confermano l'identità personale. In qualche modo noi siamo quelli che non entrano nel cinema quando il film è già cominciato. Quindi da un lato ci fanno sentire più a posto e ci danno benessere, e dall'altro qualche volta ci proteggono come pensiero magico e ci danno l'illusione di riuscire a controllare meglio il mondo esterno. 800 24 00 24, se oltre a parlare delle vostre piccole manie, delle vostre fissazioni, dei rituali, volete anche presentarvi come ha suggerito il dottor Aquilar, io sono quello che, come Woody Allen, non entro al film iniziato, oppure ditemelo voi. Invece con il professor Barbanti volevo verificare con lei come mai di alcune manie siamo perfettamente consapevoli. Per esempio, decido di temperare bene tutte le matite, devo temperarle sempre per avere sempre le punte perfette, mentre altre manie avvengono in modo totalmente inconsapevoli, per lo scarabocchio, mi tocco i capelli, morsicchio le unghie. Professor Barbanti. È un bellissimo argomento, cercherò di spiegare agli ascoltatori cosa rappresenti il movimento, il gesto, e provo a cominciare con uno slogan. Il gesto è il comunicato stampa delle nostre emozioni. Ieri ci sono state le elezioni, i comunicati stampa sono quasi sempre piuttosto asettici, ma lasciano intravedere in realtà cosa bolla in pentola, ed è bellissimo, sì, vedere attraverso un gesto, ed è per questo che le assunzioni si fanno con controllo, con colloquio de viso e non su base di fototessera, capire cosa c'è alle spalle. Questo perché nella binomio sempre indissolubile ma difficilmente poi in realtà fondibile tra psiche e cuore, quindi tra ragionamento ed emozione, queste due grandi situazioni del nostro cervello trovano il loro Camp David, la zona di accordo, in una zona chiamata nucleo della base, dove si mettono insomma assieme le nostre motivazioni razionali, la nostra volontà e i nostri impulsi che vengono dal basso. E allora, nel caso di chi debba mettere le pantofole messe bene prima di addormentarsi, avremmo semplicemente la gestione d'un'ansia che viene dal basso, quindi l'attore è il cervello cosciente che è sollecitato dall'emotività, nell'altro caso, quando magari io sto scarabocchiando, il gesto diventa una maniera fondamentale per capire, e lascerò al collega a stabilire cosa stia provando, ma per stabilire che il soggetto in quel momento qualcosa sta provando, un'emozione o una noia sta sperimentando. Professor Barbanti, mi ha stupito la sua chiarezza, lei è sempre molto chiara, ma ci ha proprio così aperto un po' un mondo, perché spesso noi, quando parliamo delle nostre piccole manie, abbiamo paura di metterle tutte nello stesso calderone, invece con la sua definizione tutto è più chiaro. Io stavo scarabocchiando, a proposito di scarabocchi, e ho smesso, non so come mai, dovrei chiederlo al dottor Aquilar, ma vorrei dare prima la parola a Maria Antonietta, che ci chiama dalla provincia di Frosinone, all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta. Senta, io volevo, ho una figlia ormai adulta che da quando era piccola ha proprio la mania dei capelli, cioè a un certo punto dovunque sta, appena sta un attimino in relax, attorciglia le punte dei capelli, proprio le attorciglia fino a spezzarle, infatti ha le punte dei capelli rovinatissime. Perché? Volevo capire il perché di questa. Maria Antonietta dice: quando sta in tranquillità, ad altre persone invece, dottor Aquilar, capita quando sono particolarmente magari tese o agitate. Che cosa può voler dire questa piccola mania che è molto frequente? Se è piccola va benissimo, perché altrimenti diventa un sintomo preciso che si chiama tricotillomania e che richiede psicoterapia. Ma in realtà sta tranquilla vista dall'esterno probabilmente questa persona. E in quel momento scattano delle emozioni che la persona probabilmente non riesce a riconoscere, e nel tentativo di regolare questi stati d'animo negativi ha scoperto che questa attività di giocare con i suoi capelli le riduce l'attenzione rispetto a quei problemi. È sempre una questione di intensità, frequenza e durata, perché se fosse troppo forte sarebbe necessario un intervento psicoterapeutico per aiutare questa persona a identificare quali sono quelle emozioni che hanno a che fare comunque con tutta probabilità con l'ansia, che non si riesce a identificare a che cosa è agganciata, e quindi trovare altri sistemi per gestire più efficacemente l'ansia. Se invece è soltanto una piccola e poco costante abitudine, e allora è solo un modo di riorientare l'attenzione sui suoi pensieri. Andiamo a Bologna, c'è Yolanda. Buongiorno Yolanda, ci racconti la sua mania, il suo pallino. Non ricordo quando è cominciata, comunque da moltissimo tempo. E io, quando ascolto qualcosa dalla televisione, qualcuno che chiacchiera, io con l'indice della mano destra scrivo delle parole, non mi accorgo neanche di farlo. Quindi mi metto là sulla gamba, sul divano, muove l'indicino, ecco l'indice, e scrivo come se avessi da mano una penna, diciamo. Sì. Ecco, non so, lo faccio da sempre, non me ne accorgo neanche. Poi mio marito mi dice: che cosa stai scrivendo? Capire, no? Però io non lo faccio così, senza rendermene conto. Professor Barbanti, lei ha esordito dicendo: io me la sono segnata perché l'avviso che la rivenderò. Il gesto è il comunicato stampa delle nostre emozioni. Anche un gesto piccolo, una scrittura fatta per aria sul bracciolo del divano con l'indice? Ah, certamente potrebbe essere anche il comunicato stampa della nostra concentrazione. È difficilissimo pensare senza muoversi un po'. E addirittura è quasi impossibile parlare senza gesticolare. Pensiamo un povero militare, non so, nei film americani molte volte si vedono questi marines costretti a parlare sull'attenti, è impossibile. Questo perché? Perché noi deleghiamo alle nostre mani, in particolare, poi diremo come c'è in realtà una grande mano dentro il nostro cervello, avremo modo di spiegarlo, ma noi deleghiamo alle nostre mani parte del nostro lavoro cognitivo. Cosa vuol dire? È come se noi abbiamo in quel momento nella testa, e io oggi cercherò di parlare più di pensieri che di emozioni, tanti pensieri, la signora magari stava ascoltando una notizia del telegiornale che la interessava, la preoccupava, e allora deleghiamo parte del nostro lavoro alle mani, mentre la testa si dedica maggiormente alla memoria e al contenuto. E insomma è come se uno delegasse a sbrigare piccole pratiche ad un proprio dipendente, e le mani altro che piccolo dipendente sono per noi. 800 24 0024, raccontateci le vostre piccole manie, i vostri rituali, gesti che fate in automatico e da cui ricavate un sottile piacere, ma confessate anche manie, fissazioni, manierismi di cui vorreste fare a meno e perché. Intanto io vado a salutare Daniela Poggi che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Sì, una bellissima giornata di sole. Fantastico, questo ci voleva. Ma sì. Volevo chiederle, si dice che in teatro i gesti rituali spesso a scopo scaramantico siano di casa. Sì, assolutamente sì. Intanto c'è un rituale che al 99% viene effettuato da tutti ed è quello di prendersi tutti per mano dietro le quinte, dietro il palcoscenico e dire tutti insieme 1, 2, 3. Poi lo posso dire? Certo. Merda, merda, merda. E poi ci si dà una pacca sul sedere tutti. Bellissimo. Questo è proprio un rituale che insomma è scaramantico. Dove c'è tutto. Ma il dottor Aquilar sicuramente è in grado di commentarlo perché, dottore. E come no? E questo che è un invito a nozze per lei. È la dimensione sociale delle emozioni. E l'idea di coordinarsi prima di un evento importante allo scopo di lavorare meglio, di fare gruppo, di sentirsi uniti e affiliati, è il cosiddetto sistema motivazionale neocorticale per certi aspetti della affiliazione, siamo tutti uniti in questo compito e rinforziamo con questo rituale la nostra appartenenza ad un gruppo, così riusciremo a fare meglio. Daniela, è vero, quindi pienamente. Quindi poi c'è la storia anche del copione che se cade bisogna. Ah sì, beh, quello se dovesse cadere anche soltanto una piccola pagina di un copione, per esempio, sfusa, viene battuto a terra 3 volte. E poi, per esempio, un'altra invece, una mia scaramanzia, ma credo che appartenga a molti, sì, è quello di compiere sempre gli stessi gesti. Questo perlomeno durante tutte le prime repliche di un debutto importante, in una piazza importante, cioè dal momento in cui tu metti piede sul palcoscenico fino al momento in cui devi entrare in scena, vengono svolte le stesse cose, cioè cerchi di non cambiare il percorso, cerchi di non fare qualcosa di extra, cerchi di non parlare. Sì, un po' come fanno i ragazzi quando devono fare gli esami, insomma, un rituale rassicurante. Un rituale rassicurante che è la respirazione, che è appunto una specie di concentrazione, il metodo di entrare immediatamente dentro la parte. Io per esempio sono una anche religiosa, per cui comunque mi rivolgo sempre al mio Signore, ai miei genitori, e volgo lo sguardo verso di loro, dico papà, mamma, guardatemi, lo faccio per voi, guardate, angelo custode. Sì, quindi senti, i nostri esperti ci hanno spiegato che le piccole manie ci regalano tranquillità e sicurezza, servono a scaricare le tensioni, a farci anche stare un po' meglio, ma ci sono manie, manierisme che osservate dal di fuori ci fanno innervosire, te ne cito alcune: rosicchiarsi le unghie, attorcigliarsi i capelli, schiarirsi la voce, muovere la gamba in modo frenetico, cambiare di continuo posizione. Quale di queste fissazioni, palline, manie, manierismi notato negli altri ti dà più fastidio? Ma sicuramente è a tavola, per esempio io detesto quando non usano bene le posate. Vedi? Quando le posate vengono usate male, in malo modo, con una gestualità errata, oppure nel fatto per esempio di non so, toccarsi i denti con la lingua per cercare di togliere il cibo, piuttosto quindi, che magari una gesticolazione esagerata durante una conversazione, cioè se ogni parola, ogni aggettivo, ogni emozione dovesse essere rappresentata attraverso il gesto delle mani, veramente potremmo anche essere muti. Certo. Non abbiamo bisogno della voce. Daniela, io so che tra l'altro tu sei porti in scena in questo, stavo pensando a tutti i rituali sul palco e dietro, prima di entrare in scena, stai portando in scena 3 monologhi che raccontano la storia di 3 donne straordinarie. Beh, tre donne completamente diverse, perché una è una storia vera di una staffetta partigiana che si chiama Eda Bussolari e che oggi ha 90 anni, ha raccontato la sua vita, la sua storia, tutto quello che la sua sofferenza, la perdita del cognato durante un agguato dei nazifascisti e quindi si chiama Eda, una storia del Novecento. Poi ho raccontato l'amore di una figlia, di un figlio nei confronti di un genitore quando il genitore diventa figlio dello stesso figlio, quindi il figlio diventa genitore del proprio genitore ed è stata sulla base della mia esperienza diretta con mia mamma malata di Alzheimer, quindi ho raccontato questa storia che si chiama Io madre di mia madre e che ho tratto anche da Tarben Jalun e da Simone de Beauvoir con tutti interventi miei. Il terzo invece è una donna completamente diversa, è una donna che si rapporta a un amore molto molto forte, molto passionale, che inizialmente potremmo pensare che sia un amore umano, invece poi scopriamo che è un amore divino, quindi è una donna che diventa suora, che diventa poi mistica e che diventa poi anche santa, quindi tutto quello che è dentro il percorso interiore di paure, di fragilità, di ossessione, di amore malato, di amore ozioso, impaziente, infatti il testo si chiama L'amore impaziente, scritto da Valeria Moretti, e sono tutti e tre questi monologhi con la regia di Silvio Peroni, che è un giovane regista molto in gamba, molto attento a Daniela, non ti posso dire niente, vero? Non si dice in bocca al lupo, si può dire. E io ti rispondo: viva il lupo! Viva il lupo! Grazie a Daniela Poggi per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi grazie a voi. Torniamo a parlare delle nostre piccole fissazioni, palline, manie. Parleremo anche di movimenti involontari. Molti mi stanno scrivendo: a volte mi balla la palpebra e non me ne rendo conto, ma me lo raccontano gli altri. Che cosa sarà? 800 24 00 24. Noi facciamo una pausa perché è tempo di dare la linea ai mercati, poi il meteo, poi di nuovo insieme col professor Barbanti, il dottor Aquila e Nicoletta, naturalmente. Stamattina sono un po' in ritardo, ma non importa, perché nelle ultime settimane ho lavorato col dottor Casey. Vedete, è un ossessivo compulsivo e gli piace iniziare la giornata sempre nello stesso modo. Bink, bink. Toccando bink, tutto bink, nella stanza bink, del suo primo bink, paziente. Bink, bink, bink, bink, bink, bink, bink, bink. E noi ritorniamo insieme. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, che ci racconterà della mano che abbiamo nel cervello, vero professore? Ah, sicuramente. È una mano che non riesce a stare ferma quando parliamo. Tra l'altro, linguaggio e gesti sono strettamente legati. Madre Natura ha fatto gemellare il centro del linguaggio con il centro della gestualità. Purtroppo chi ha avuto un ictus nell'emisfero sinistro non solo non riesce a parlare molte volte, ma neanche a fare gesti. E poi proprio l'area di rappresentazione della bocca è contigua a quella della mano, e quando parliamo dobbiamo muovere in particolare le dita, e c'è una buona spiegazione. Il motivo iniziale per cui Madre Natura ci ha fatto così vicini mano e bocca è per nutrirci, perché l'impulso di una cosa così importante, portare il cibo alla bocca, non si perdesse strada facendo. Man mano andando avanti nel tempo, la nostra comunicazione sempre più raffinata ci ha consentito di utilizzare la mano come strumento spaventosamente rafforzativo del nostro linguaggio. E io, che sono mancino, sto muovendo la sinistra. Vede, anch'io sono mancina, una mancinaccia. Silvana da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire che al mattino quando mi sveglio non mi alzo se non, sulla sveglia non c'è un multiplo di 3. Per dire, sulle 7:10 non mi muovo, alle 7:11 mi muovo. E se non ho voglia di alzarmi, aspetto alle 7:14. I multipli di 3. Sì. Allora, vediamo, poi la commentiamo insieme ai nostri esperti, al dottor Aquila e al professor Barbanti. Andiamo ad Andrea da Milano, ci racconta un suo pallino? Ma io diversi tic molto particolari che però fanno parte della stessa fattispecie, quella di essere sempre in movimento. Per esempio, mi tocco con la punta dell'indice il naso, poi mi tocco la barba, poi muovo la gamba. È una cosa che faccio di continuo e sono diverse cose, ma ripeto, giusto per essere sempre in movimento. E siccome sono una persona che spesso parla anche in pubblico, sì, quando sono in pubblico per non esternare la cosa, magari muovo la lingua all'interno, però qualcosa che si muove c'è. Qualcosa, e il professor Barbanti le ha già un po' anticipato una risposta, perché ci ha raccontato di questa grande manona che abbiamo nel cervello, ma torneremo anche ad Andrea e alle persone che si riconoscono in lui. E Andrea, devo dirle, dai messaggi che sto leggendo al 349-238-6666, sono davvero tante. Farei un saltino a Udine a trovare Paolo. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ecco, il mio pallino invece è quello di contare tutto. Io guardo un tetto, conto i cammini, guardo una casa, conto le finestre e non ho mai capito perché è sempre stato così. Da quando era piccolo? Sempre, sì. Sempre. Chissà quanti numeri nella testa di Paolo. Sì. Dottor Aquilar, tre storie, tre pallini tutti diversi. Che hanno però in comune la gestione dell'ansia. In realtà tutto quello che riguarda i sintomi ossessivi, perché di questo stiamo parlando anche se in maniera piccola e quindi assolutamente normale, ci aiutano a gestire l'ansia e a riorientare l'attenzione. Silvana da Milano guadagna qualche minuto in più di sonno aspettando il multiplo di 3, mentre invece Andrea sta sempre in movimento. Può darsi che, riprendendo l'ipotesi che proponeva il professor Barbanti e che mi trova totalmente d'accordo, del fatto che questi aspetti sono una comunicazione, qualche volta il significato è: non vorrei stare qui a parlare in pubblico e quindi per dispetto muovo la lingua contro i denti e anche cerco di non sentire la sensazione sgradevole e ansiosa che mi dà questa situazione. Paolo da Udine utilizza un altro sistema abbastanza diffuso per tentare di ridurre l'ansia, che è quella di spostare l'attenzione sui camini, sulle finestre, per non restare concentrati sul tema che in quel momento ci preoccupa. Finché è poco va benissimo, ma prima o poi ci converrà andare ad imparare dei sistemi per gestire l'ansia in un modo meno fastidioso e più proficuo. Se noi la riusciamo a ridurre di molto, non avremo più bisogno di fare tutta questa fatica. Volevo parlare con voi di un messaggio che mi manda Aurelia, dicendomi che lei prova un sottile piacere a rosicchiarsi le unghie, perché questo piacere le è dato da quel lieve dolore che prova rosicchiandosi e tirandosi le pelline. Professor Barbanti, è vero che a volte un leggero dolore provoca un piacere sottile? Sì, perché noi abbiamo un sistema di pesi e contrappesi molto democratico tra informazioni dolorose e informazioni anestetizzanti, ed è una dinamica che viene gestita da nuclei impronunciabili del cervello sotto l'egida, sotto l'occhio vigile del cervello limbico, che è il cervello delle emozioni, e qui mi ricollego a quanto diceva il nostro collega. Ci sono addirittura molte volte, diciamo, il confine tra il piacere e il dolore è molto labile, a volte non c'è. Pensiamo al solletico: il solletico ci fa ridere o ci dà fastidio? Pensiamo a ridere, a volte piangiamo dalle risate, oppure il bambino dal piangere passa rapidamente al ridere. Si tratta di meccanismi che hanno una base comune, cioè, e qua mi rifaccio specificamente al solletico, che in parte può essere anche una situazione piacevole, ma non oltre a ciò. E a volte può suonare un po' come una piccola tortura. Una piccola tortura, senza dubbio. Noi saremo predisposti sostanzialmente sempre a ridere. Abbiamo un freno a mano che sta in una zona del cervello anteriore che lo tiene bloccato. Bene, quando noi siamo stanchi in particolare, o quando andiamo a stimolare in una certa maniera, con una certa frequenza, alcune aree del nostro corpo, possiamo avere una sensazione inizialmente piacevole, poi sgradevole, che molla il freno a mano e ci fa ridere senza motivo. Ecco qui, in questa situazione, una ambivalenza di stimolo non fastidioso che diventa fastidioso, riagghiacciandomi quindi alla sua domanda, un dolore che causa piacere. Vito ci chiama da Firenze, buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno. Allora, io volevo porre questo quesito. Io tutte le sere, prima di andare a letto, ho questo vizio di dover controllare continuamente se le finestre, le porte sono correttamente chiuse. E lo fa una volta sola o più volte? No, più volte. Parecchie, praticamente 5, 6, alle volte anche 10 volte. E questa cosa mi dà parecchio fastidio, perché... Vito, ma lei abita da solo? No, io abito con la mia compagna. Ho anche e se lo fa la sua compagna, lei si fida o deve controllare di persona? Esatto, no, alle volte devo ricontrollare se sono state chiuse bene. E la sua compagna non si lamenta? No. Ogni tanto sì, se ne accorge, ecco. Dice che ho questa mania... Dottor Aquilar, Vito dice una mania maniacale. Balzac diceva che la mania è piacere passato allo stato di idea. Che cosa è cambiato dalle manie che vedeva e descriveva Balzac a quella di Vito? Quella di Vito è cambiato che non è tanto piacevole perché in qualche modo è un obbligo. Lui deve effettuare questo controllo e questo obbligo ossessivo fu per esempio descritto molto brillantemente da Giorgio Gaber in una sua canzone che si concludeva con mi addormento alle 5 del mattino lasciando aperta porta, finestra e gas. E quindi dobbiamo stare attenti perché i rituali di controllo e ricontrollo ci limitano nella nostra libertà. E il punto è che probabilmente dovendolo fare la sera c'è l'idea di mollare il controllo su una realtà che ci appare incontrollabile e ci illudiamo che noi in questo modo riduciamo i pericoli. Sarebbe carino se il nostro ascoltatore Vito raccontasse alla sua compagna le emozioni che lui ha passato in quella giornata, come si è sentito, che bilancio fa prima di andare a letto e forse controllerà 2 volte anziché 12. Ecco, ma le persone che vivono accanto a, persone, scusate la ripetizione, che hanno manie, piccole fissazioni, come possono interagire con loro? Il classico, molte mamme mi stanno scrivendo, mio figlio si morde le unghie, che io lo sgrido ma lui non smette, o attorcigliarsi i capelli. Si può limitare la mania dell'altro in qualche modo, educarlo, aiutarlo a smettere, dottor Aquilar? Sì e no, nel senso che nella maggioranza dei casi semplici può bastare dare appunto la possibilità a quella persona di raccontare che cosa prova. Il punto è che non tutti siamo in grado, soprattutto se siamo bambini, di raccontare adeguatamente quello che proviamo se non siamo aiutati dall'interlocutore. È palesemente un livello forte di disagio che si esprime in ansia e si esprime in allarme, come per esempio l'onicofagia, cioè l'abitudine di rosicchiarsi le unghie anche con quel sottile piacere qualche volta, può rappresentare in certi casi la necessità di infliggersi un dolore autocontrollato per evitare di subire dolori controllati dall'esterno. In questo senso potrebbe essere necessario un aiuto in più. Per però limitarci ai casi più semplici, la questione è invitare la persona a cui noi vogliamo bene a raccontarci un po' di più come essere lui, indipendentemente dal comportamento che vogliamo ridurre, semplicemente per dargli la possibilità di raccontare la sua esperienza. Già questo attenuerà l'ansia. Allora, raccontatemi la vostra esperienza all'800 24 0024. Aldo da Cuneo, prima delle informazioni sul traffico. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo sapere se poteva essere una questione ereditaria. Io ho notato che mio figlio fa lo stesso gesto che faceva mio padre nei momenti di tensione, si accarezza il naso dagli occhi alla punta col dito indice e il dito medio e lo stesso movimento, lo stesso gesto, la stessa mania la fa mio figlio quando è... Quindi sono saltato io che non l'ho mai fatto. Però può sempre iniziare anche lei. Aldo, a tra poco, dopo le informazioni sul traffico, 800 24 0024, a tra poco. Deve aprire la busta con la mano destra e tenermela a un angolo di 45 gradi, così che io possa metterci la mano dentro, senza toccare la carta. Se c'è una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale, l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio. Ed eccoci di nuovo insieme. Intanto voglio salutare Patrizio Roversi, che è in linea con noi. Patrizio, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che sembra non abbia nessuna mania, vero Patrizio? Beh, insomma, allora adesso non esageriamo. Quasi l'uomo perfetto. In effetti ne ho avute durante la mia infanzia, adolescenza e giovinezza e molte sono passate. Ecco, forse io posso fare l'ipotesi che tra virgolette si può guarire. Ma no, le ho avute perché chi da bambino non ha pestato le mattonelle in modo da non coprire le righe tra una mattonella e l'altra, no? O cose del genere, ecco, questo l'ho fatto. Oppure facevo anche un'altra cosa, molto poco fine, lo ammetto. Sì. Anzi, fa proprio schifo, la dico, perché tanto qui, no, è una specie di confessionale psicosomatico. Allora, quando ero piccolo e mangiavo la gomma da masticare, a un certo punto la pallottolavo e poi la sputavo in alto e cercavo di prenderla al volo con un calcio tipo, appunto, calcistico, e la tiravo più in là possibile. Se la tiravo molto in là, io ne traevo dei buoni auspici. Se per caso mi si appiccicava alla scarpa, era un disastro, volevo dire che per quel giorno era meglio che tornassi a casa. Cose di però tipo. Crescendo, vero? Crescendo e viaggiando anche in giro per l'Italia, ti vediamo nel tuo programma la domenica. Sì, lo Slow Tour, Italia Slow Tour, sì. Proprio dell'Italia, quella piccola, un po'. È l'esperienza che ha coronato molti giri in giro per il mondo, perché poi dopo ti convinci che il posto più bello ovviamente è l'Italia. Girando vedrai anche, no, paese che vai, mania che trovi. Sì, certo, ci sono tutta una serie di manie in giro. Una può essere per esempio quella dell'ordine / disordine, no? Sono più che manie, sono stili collettivi. Allora non lo so, io ho sempre invidiato in qualche modo, non puoi definire una mania, anzi è un grande pregio collettivo, però se per esempio vai nelle nostre montagne, soprattutto in Trentino Alto Adige, questa mania, se vuoi, ma con molte virgolette e con un'accezione positivissima per l'ordine, per la cura, no? La cura dei balconi, la cura che sembrano case, dipinti, è vero, la pulizia, eccetera eccetera. Viceversa, in alcune metropoli del sud hai, credo, una mania collettiva per il casino, e questa io la condivido. Per esempio, una delle manie che mi è rimasta è che io devo vivere nel disordine. Se tu mi metti invece io ho la mania, ad esempio, così ci facciamo fare un commento dei nostri esperti, anch'io sono disordinata tranne per i maglioni, che amo piegare e disporre nell'armadio divisi per tonalità, per tinte, insomma non mi piace mescolare il maglione chiaro con quello scuro. Sì, no, per no. Cui io e te lo sappiamo già, non potremmo vivere insieme. Dottor Aquilar, che dice? Dico che è carino. Intanto Roversi ci aiutava a vedere come a volte queste piccole manie possono avere due ordini di significati, quelli personali assolutamente individuali e quelli antropologicamente fondati, cioè una comunità può decidere di differenziarsi dalle altre per la cura particolare dei balconi, significa senso di appartenenza, mentre un'altra per un certo disordine. Quindi in qualche modo torniamo all'aspetto comunicativo, noi comunichiamo sia a noi stessi che agli altri qualcosa di individuale e qualcosa di sociale. Per quello che riguarda i maglioni è molto carino, perché mentre la tua sensazione di disordine ti dà vitalità, la tua sensazione di ordinare i maglioni per gradazioni di colore ti dà probabilmente senso di padronanza di qualcosa, di armonia e di possibilità di una scelta graduata del maglione adatto rispetto al tuo stato d'animo di ogni giorno. Insomma, io adesso mi scarico questo pezzettino, lo faccio riascoltare alle mie figlie. Io la adoro. Patrizio, grazie per essere stato con noi. Buon viaggio. Grazie. A voi. Grazie. Arrivederci, a sentirci. Ciao. Dottor professor Barbanti, il nostro ascoltatore che abbiamo sentito prima delle informazioni sul traffico ci raccontava, lui l'ha definito tic, forse non è proprio una definizione corretta, perché il tic è un movimento ripetitivo, vero? È un movimento che non ha finalità ed è un movimento che il soggetto non riesce a controllare con la propria volontà, anzi peggiora. Ecco, però, e dice, è in qualche modo ereditario? Dal nonno al nipote? Bisognerebbe chiedere al signor Aldo se il nipote ha conosciuto il nonno, perché in quel caso è acquisito. Certamente c'è una base ereditaria quasi per tutto, dal colore degli occhi in poi, però è possibile che il nipote, se ha conosciuto il nonno, abbia imparato la maniera di gestire le emozioni, l'ansia, la tensione, il rilassamento, con quello che noi chiamiamo meccanismo patoplastico, e cioè entra su di te uno stampo che ti viene fornito già belle fatto dall'altro. Volevo solo dire una piccola cosa, è uscito fuori oggi tante volte il criterio della superstizione, del ragionamento magico, solo una piccola precisazione: è dimostrato che i soggetti che tendono ad essere superstiziosi, spesso creativi, spesso artisti, ragionano più con la parte anteriore e interna del cervello rispetto ai ruminatori, che utilizzano la parte più laterale del lobo frontale. Sembra poco, però sta a dimostrare come la ricerca nelle scienze neurologiche abbia fotografato, e non è poco, dei meccanismi che spiegano i nostri piccoli, comportamenti, piccoli nostri vizi, piccoli nostri comportamenti. Grazie al professor Barbanti e grazie al dottor Aquilar per essere stati con noi. Grazie a voi che, come suggeriva Patrizio Roversi, avete confessato le vostre piccole manie, i vostri tic. Ai miei esperti, spero di avere l'occasione di sentirvi tra pochi giorni, no, insomma tra breve. Grazie, e soprattutto leggeremo il dottor Aquilar sul nostro Daily Lab. Grazie a tutte e due. Io vi devo invitare, giovedì e venerdì saremo al Salone del Libro, Padiglione 2, Stand J166, sempre in diretta, Essere Benessere, dalle 11 alle 12, faremo dei laboratori, voi partecipate, perché al giovedì 10 parleremo di lettura, essenze, ricordi, faremo un laboratorio sulle emozioni, mentre venerdì Mangia con me vi prende le misure, quindi venite, partecipate, e io vi do intanto appuntamento a domani perché devo scappare. Buona giornata. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.